Uomini il cui abito mentale tende a fantasie, alla superstizione, non possono fare alcun progresso sulla via occulta. Il discepolo dell'occultismo deve guadagnarsi un bene prezioso. Ogni dubbio sui mondi superiori gli viene tolto. Quei mondi si svelano al suo sguardo con le loro leggi. Però non vi arriva finché si fa ingannare da errori e da illusioni. Sarebbe male per lui se fantasie e pregiudizi permeassero il suo intelletto. Sognatori e visionari sono altrettanto inadatti per il sentiero occulto, quanto chi è superstizioso. Su questo non si insisterà mai abbastanza. I sogni, le fantasticherie e le superstizioni sono i peggiori nemici sulla via della conoscenza dei mondi superiori. Non bisogna però credere che il discepolo dell'occultismo debba perdere la poesia della vita e la capacità dell'entusiasmo, perché sulla porta che conduce alla seconda prova dell'iniziazione stanno scritte le parole: ogni pregiudizio deve essere da te abbandonato. E perché sulla porta d'entrata della prima prova ha potuto leggere? Se non hai sano buon senso, i tuoi passi sono vani. Quando il candidato è così progredito a sufficienza, lo attende la terza prova. In questa nessuno scopo gli viene indicato. Tutto è posto nelle sue mani. Egli si trova in una posizione in cui nulla lo stimola all'azione. Deve da solo trovare la propria strada. Non vi sono né cose né persone che lo incitino. Da niente e da nessuno, se non da se stesso, può attingere ora la forza di cui ha bisogno. Se non trova in sé questa forza, si vede ben presto ritornato al punto di prima. Bisogna però dire che solo pochi di coloro che hanno superato le prime prove non trovano ora questa forza. O si rimane indietro prima, o si è capace di superare anche questa prova. Occorre ora saper prendere con prontezza una risoluzione, perché bisogna fare appello al proprio sé superiore, nel senso più vero della parola. Bisogna decidersi prontamente a dare ascolto in tutte le cose ai suggerimenti dello spirito. Non vi è più tempo per dubbi, riflessioni o d'altro. Ogni minuto di esitazione dimostra soltanto che non si è ancora maturi. Ciò che impedisce di dare ascolto allo spirito deve essere superato con energia. Occorre ora dar prova di presenza di spirito. Questa, infatti, è la qualità che deve essere completamente perfezionata a questo punto dell'evoluzione. Cessano tutte le tentazioni a cui il discepolo era abituato e che lo spingevano all'azione o al pensiero. Per non rimanere inattivo, non deve perdere se stesso, perché soltanto in sé può trovare l'unico saldo punto di appoggio al quale attaccarsi. Chi legge tutto ciò senza una vera conoscenza dell'argomento non dovrebbe sentire antipatia verso questo poggiare unicamente su se stesso, perché nel superare questa prova il discepolo gode della più bella felicità. Come negli altri casi, anche in questo, la vita ordinaria è già per molti una vera disciplina occulta. Per persone che, poste all'improvviso di fronte a nuovi compiti nella vita, siano progredite al punto di essere capaci, senza esitazione, senza soverchia riflessione, di prendere una pronta decisione, la vita è veramente una disciplina occulta. Le situazioni adatte sono quelle in cui ogni azione è destinata a fallire se non si interviene prontamente. Chi è pronto ad intervenire di fronte all'improvvisa minaccia di una disgrazia, quando un istante di esitazione la potrebbe determinare, chi ha acquisito come qualità permanente la prontezza di decisione, ha conseguito inconsapevolmente la maturità per la terza prova, perché questa tende appunto allo sviluppo dell'assoluta presenza di spirito. Nelle scuole occulte viene chiamata la prova dell'aria, perché in essa il candidato Non si può appoggiare né sul terreno solido delle occasioni esteriori, né su ciò che gli risulta da colori, forme e così via, che ha imparato a conoscere per mezzo della preparazione e dell'illuminazione, ma deve appoggiarsi unicamente su se stesso. Se il discepolo ha superato questa prova, gli è permesso di penetrare nel tempio delle conoscenze superiori. Di quanto ancora vi sarebbe da dire sull'argomento, si possono dare un breve accenno. Ciò che ora si richiede al discepolo è stato spesso espresso dicendo che deve prestare giuramento di non tradire nessuno degli insegnamenti occulti. Però le parole giuramento e tradire non sono affatto giuste e possono indurre in errore. Non si tratta di alcun giuramento nel senso ordinario della parola. A questo gradino dell'evoluzione si fa piuttosto un'esperienza. Si impara come vanno applicati gli insegnamenti occulti per metterli al servizio dell'umanità. Si comincia allora soltanto a comprendere giustamente il mondo. Non si tratta di tacere le verità superiori, ma piuttosto di presentarle nel modo giusto e col tatto necessario. Ciò di cui si impara a tacere è qualcosa del tutto diverso. Si acquista cioè questa bellissima qualità riguardo a molte cose di cui prima si parlava e soprattutto nei riguardi del modo in cui se ne parlava. Sarebbe un cattivo iniziato chi non volesse porre segreti sperimentati a servizio del mondo nel modo migliore e più largo possibile. L'unico ostacolo alle comunicazioni che si possono fare in questo campo è la mancanza di comprensione in coloro che devono accoglierle. Certo, i segreti superiori non sono adatti per conversazioni oziose. Non è comunque proibito parlarne ad alcuno che abbia raggiunto il gradino descritto di evoluzione. Nessun uomo e nessun essere impone in proposito al candidato un giuramento. Tutto è affidato alla sua responsabilità. Ciò che impara è saper scoprire attraverso se stesso, in qualsiasi situazione si trovi, ciò che deve fare. Il giuramento significa soltanto che il candidato è ormai maturo per sostenere tale responsabilità. Quando il candidato è maturo per quel che è stato descritto, riceve ciò che simbolicamente si chiama la bevanda dell'oblio. Viene cioè iniziato al segreto sul modo di agire senza essere di continuo disturbato dalla memoria inferiore. È necessario per l'iniziato, perché deve avere sempre completa fiducia nell'immediato presente, deve poter distruggere i veli del ricordo che in ogni istante della vita ci circondano. Se io giudico quel che mi succede oggi, alla stregua di ciò che ho sperimentato ieri, mi espongo ad errori infiniti. Naturalmente, ciò non va interpretato come se si negasse l'esperienza acquisita nella vita. Bisogna tenerla sempre presente, quanto più si può. Come iniziato, occorre però avere la capacità di giudicare ogni nuova esperienza di per sé stessa, lasciando che agisca su di noi senza essere turbata dal passato. In ogni istante devo attendermi che ogni cosa o essere possa recarmi una rivelazione del tutto nuova. Se giudico il nuovo alla stregua del vecchio, sono soggetto all'errore. Il ricordo di antiche esperienze mi è specialmente utile appunto perché mi rende capace di vedere il nuovo. Se non avessi avuto una determinata esperienza, non potrei forse neppure vedere la qualità di una cosa o di un essere che mi si presenta. L'esperienza deve però servire a vedere il nuovo, non a giudicarlo sulla base del vecchio. A questo riguardo, l'iniziato consegue qualità ben determinate. Grazie a ciò, gli si svelano molte cose che rimangono nascoste a chi non è iniziato. La seconda bevanda che viene offerta all'iniziato è la bevanda della memoria. Grazie ad essa, egli consegue la capacità di tener sempre presenti nello spirito i segreti superiori. La memoria abituale non sarebbe sufficiente. Si deve diventare tutt'uno con le verità superiori. Occorre non soltanto conoscerle, ma anche disporne nella viva azione, con la completa naturalezza con cui l'uomo normale mangia e beve. Devono diventare pratica, abitudine, tendenza. Non deve affatto occorrere che vi si rifletta su nel senso ordinario della parola. Esse dovranno manifestarsi per mezzo dell'iniziato stesso e fluire attraverso di lui come le funzioni vitali del suo organismo. Così, in senso spirituale, egli si avvicina sempre più alla perfezione che la natura gli ha conferito nel fisico.